che ha collaborato come docente in grafologia con varie scuole di grafologia disseminate sul nostro territorio, ma anche degli agganci e delle frequentazioni, oltre che delle attività con la sede locale di Bolzano, che ringrazio, in particolare la signora Rosa, che ci ha permesso così di incontrare nuovamente Anita Rusciadelli e così conoscere questa sera insieme a lei il suo nuovo libro, Ti racconto una madre. E ecco, ringrazio l'istituto perché ci ha dato una mano, ci ha ispirato in questo incontro, vero signora? La signora Rosa, sì. Vedo che c'è anche un banchetto con alcuni libri che sono in vendita, abbiamo come biblioteca anche organizzato una vetrina tematica. Approfitto sempre, lei avrà pazienza un attimo, ma di questi preziosissimi momenti quando c'è un pubblico che arriva per un evento culturale, per promuovere un po' quelle che sono le iniziative della settimana in corso. Quindi noi domani ci troveremo di nuovo in questa sala alle ore 18 con Adel Jabbar, che ci parlerà sempre con una conferenza, Le mille e una notte, l'attualità del fantastico. Chiaramente sarà tutto incentrato rispetto alla Persia e all'Iraq, quindi un taglio geopolitico, ma anche diciamo di tipo storico, con il nostro sociologo di fiducia che negli anni ci accompagna nell'interpretazione, nella lettura di eventi attualissimi come quelle delle migrazioni e anche dell'equilibrio molto precario del vicino Medio Oriente. Poi invece mercoledì abbiamo un pomeriggio alle 16 in biblioteca, questo però dedicato al carnevale. Verrà con noi Giovanni Kezic, che ha scritto un paio di anni fa un libro dedicato al carnevale, gli usi e costumi nell'arco alpino, e lo organizziamo però nella sala sotto della biblioteca. Infine invece venerdì ritorniamo un po' a quello che è l'argomento di oggi, anche magari con un altro taglio, però sempre dedicato all'indagine della persona, alla centralità della persona umana, con le sue relazioni, con le sue riflessioni. Questa volta sarà con noi il centro di psicosintesi e con me ospite Petra Guckisberg-Nocelli, che presenterà invece il suo libro La via della psicosintesi. Ecco. Chiudiamo così la settimana, questa settimana dal 17 al 21 con 4 appuntamenti. Ricordo sempre che chi ha piacere, la biblioteca è un servizio pubblico che è al piano terra di questa struttura e basta iscriversi, ricevete puntualmente tutte le nostre notizie, informazioni, gli inviti ai vari appuntamenti, oltre che avere poi l'accesso all'utilizzo e alla consultazione o al prestito dei libri. Inoltre, non questa settimana, perché giovedì grasso saremo nel pomeriggio chiusi al pubblico e anche martedì grasso nel pomeriggio solamente, però tutti i giovedì di solito, e quindi il 27 di febbraio, faremo degli incontri per imparare ad usare il BiblioWeb, cioè la piattaforma che vi permette gratuitamente di scaricare sul telefonino ovunque voi siate e in qualunque momento delle 24 ore della giornata libri, cioè ebook, oppure leggere i quotidiani nazionali in oltre 50 più lingue, oppure film, musica e tanta altra documentazione digitale. Per imparare, se non avete particolare confidenza col vostro dispositivo o con queste piattaforme, ci sono dei corsi gratuiti il giovedì pomeriggio qui in biblioteca al piano terra dalle 15.30 alle 16.30. Basta telefonare e iscriversi, è sempre tutto gratuito. Grazie Anita Rusciadelli di essere con noi. Di rimanere tutta la settimana. Sì, ma guarda, è un'agenda fittissima, veramente. Dobbiamo intanto darci una calmata, dico sempre a Monica e ai miei colleghi, perché insomma poi ci vengono le idee e non riusciamo più a fermarci. Adesso il povero Andrea è stato coinvolto in questo vortice e anche lui tutte le sere partecipa. Ecco, cerchiamo anche di cambiare, di variare argomenti, perché il pubblico è vasto e gli orientamenti sono anche diversi, no? Tutto l'insegna della libertà individuale, dell'arricchimento. Ecco, allora la ringrazio ancora di essere qui con noi, vi auguro a tutti una buona serata e spero di rivedervi nella nostra biblioteca. Grazie, grazie ancora. Grazie. proviamo a vedere se mi sentite, se parlo senza microfono. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ma che ci serve? Perché noi col podcast allora, se non rimane un po' debole. Allora io lo tiro fuori perché parlo meno. Allora grazie di essere qui così numerosi, grazie, mi sento a casa perché ci sono in mezzo a voi tante persone a me care. E sono venuta con molto piacere, come sempre, a Bolzano, perché sono moltissimi anni che vengo a Bolzano e a Bressanone per motivi di lavoro, e ogni volta per me è una gioia, cioè non è lavoro, ecco, perché al di là, no, di quello che può essere una fatica lavorativa, in realtà c'è un'atmosfera per me sempre molto bella, molto accogliente, molto gradevole, quindi quando c'è una possibilità di raggiungervi io volo. Allora, siamo qui per presentare questo libro, però voglio iniziare così, che mi ci sono voluti 4 libri per capire come funziono. In che senso? Nel senso che prima di questo libro, questo è il terzo, quello che sto presentando è il terzo libro, dopo questo ne è uscito un altro che si intitola Radici e Rami e che è sul disegno dell'albero, quindi di come il disegno dell'albero racconti molto della persona che scrive. Dico che mi ci sono voluti 4 libri per capire come funziono, perché mi sono accorta, ma soltanto diciamo con l'ultimo libro, che tutti questi 4 libri avevano un comune denominatore. Allora, questi libri ve li racconto brevemente perché ha senso per un dopo. Allora, il primo che ho scritto si intitola La donna che sei, è un libro di poesie, La donna che sei, diario di un viaggio intorno, questo è il sottotitolo. E questo libro è, secondo quello che io sentivo, è dedicato alle donne. Non per forza alle donne che ho conosciuto professionalmente, quindi non per forza dedicato alle mie clienti oppure alle persone che ho incontrato. Sicuramente una buona parte di questo libro è stato ispirato dalla mia esperienza in carcere, non come detenuta, questo dico sempre perché non si sa mai, quindi come grafologa all'interno del carcere, ho fatto molti anni di consulenza ed ho visto delle realtà di donne e anche di uomini che erano così dense, così importanti, così significative, che ho sentito proprio il bisogno, quasi come un bisogno catartico, di mettere nero su bianco quello che mi era arrivato. E in quell'esperienza io ho imparato tanto, perché la realtà dentro il carcere è totalmente diversa da quella che la lettura, la narrazione delle vite delle persone carcerate è una narrazione che noi da fuori non potremmo neanche immaginarci, perché è proprio tutto diverso il modo di vedere la vita, la realtà e le storie. Dopo di questo, quindi questo primo libro è dedicato alle donne e io ho fatto tesoro dei loro racconti e li ho trasformati in poesia. Poi successivamente ho scritto un altro libro che è La traduttrice dei bambini, forse è il mio libro più noto, e questo è dedicato soprattutto ai genitori e agli insegnanti, e anche qui io non faccio altro che tradurre le narrazioni che i bambini fanno attraverso i loro disegni, i loro scarabocchi, tradurle nel senso che nel libro è raccontato ciò che il bambino racconta attraverso il disegno. Quindi attraverso il disegno, attraverso la scrittura, io parlo così perché io faccio di professione la grafologa, quindi attraverso il disegno, attraverso la scrittura, ma soprattutto per i bambini attraverso il disegno, c'è questa narrazione completa del loro stato d'animo, del loro modo di vedere la vita, della percezione di se stessi e delle persone che hanno intorno. Quindi la possibilità, mi sono data la possibilità di raccontare agli adulti quello che profondamente i bambini volevano dire attraverso i loro disegni. E poi ho scritto questo libro di cui parleremo tra poco, che è Raccontami una madre, e va bene, poi successivamente l'altro. Allora, questi quattro libri, mi sono accorta a un certo punto, dopo aver scritto l'ultimo, che questi libri avevano questo denominatore comune, e cioè erano tutti e quattro caratterizzati dall'essere praticamente contenitori di narrazioni, no? Tutti e quattro erano frutto di come una specie di antologia di narrazioni che le persone in un modo o in un altro avevano depositato fiduciosamente su di me, raccontandomi le loro vite. C'è anche da dire che quando parlo di narrazioni non intendo soltanto la narrazione verbale, no? Quindi nell'incontro con la persona che si racconta, che racconta il suo vissuto, che apre il cuore, racconta il suo malessere, le sue difficoltà, perché c'è, proprio questo grazie alla mia professione, contemporaneamente a questo livello di narrazione verbale, c'è una narrazione che è una narrazione invece più inconscia, più profonda, che passa attraverso l'osservazione della scrittura. No? Quindi la persona arriva al grafologo raccontando il tema per cui sta chiedendo aiuto, quindi la sua visione della sua situazione, e il grafologo con il foglio sotto mano si rende conto che il primo livello, quello verbale, dice alcune cose, ma la scrittura o il disegno, quello che la persona produce, in realtà racconta altro. E quello che racconta è una narrazione molto più profonda, molto più intima, molto più rivelatrice, proprio perché è una narrazione inconscia, no? E soprattutto importante perché è come se la persona si confidasse quello che sono i suoi talenti, le sue risorse, le sue caratteristiche, il suo modo di vedere la vita. Quindi pensate no, com'è bello per il grafologo avere questo doppio canale di narrazione e come è importante, perlomeno per me lo è tanto, tenere questi racconti, queste narrazioni come estremamente preziosi, no? Perché quello che io penso è che tutte queste narrazioni siano in realtà, li potremmo definire come patrimoni dell'umanità. Perché dico questo? Perché ho capito, dopo tanti tanti anni di lavoro, che ognuno di noi ha dentro di sé le stesse tematiche con cui deve fare i conti, no? Le stesse paure, le stesse insicurezze, le stesse tematiche delicate, no? Se pensiamo al tema del morire, della morte, del morire, no? Al tema della precarietà della vita, al tema della solitudine. Sono tutti temi che, indipendentemente dalla condizione sociale o dal tempo, dall'epoca, sono temi che toccano profondamente l'uomo, no? E ci sono due, sicuramente ci sono dentro di noi due movimenti che è bene, diciamo, in questo momento nominare. E il primo è il movimento che potremmo dire un movimento verticale, è quello che si può tradurre con le parole di Quasimodo, che dice: ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di luce, ed è subito sera, ricordate? Quindi questa sensazione di essere solo in mezzo agli altri, no? Questa sensazione di dover fare i conti personalmente, individualmente, con tutte le tematiche più importanti e delicate della vita. Però c'è un altro poeta, che è un poeta spagnolo, che si chiama Luis Cernuda, che dice invece: voglio solo il mio braccio sopra un altro braccio amico e spartire con altri occhi quello che guardano i miei. Quindi abbiamo due movimenti dentro di noi, no? Un movimento verticale che è, come dire, quasi di solitudine, no? Io devo fare i conti con me stesso, e un movimento orizzontale che è quello dell'appartenenza, io come te, io un essere umano come te, che sento come te, che vivo come te, che ho paura come te. Allora, in questi due movimenti credo che ci siamo tutti. Nella scrittura questi due movimenti si vedono molto bene, quindi questo è già uno strumento importantissimo per aiutare la persona, ad aiutarla, no, a capire dove si colloca in questo momento della sua vita. Però io penso che, dico questo perché penso che sia molto confortante pensare che non siamo soli, no? E che possiamo in qualche modo condividere le cose anche più per noi, più penose, più che ci mettono più timore, più perplessità, le possiamo condividere, no? E nella condivisione c'è sempre, secondo me, un grande ristoro, no? Una sensazione di essere comunque non soli, un qualcosa che ci fa sentire di appartenere. E allora penso che sia importante la condivisione, non solo nell'accezione che io dico qualcosa a te e ti apro il mio cuore, e quindi questo già mi fa stare bene, ma anche nel movimento inverso, cioè se tu mi racconti qualcosa di te, della tua vita, del mio cuore, parlo di una narrazione profonda, no? Non parlo di quello che abbiamo mangiato a pranzo, o che io leggo qualcosa che tu hai scritto, allora è come se io mi abbeverassi alla tua, no? Alla tua profondità, e quindi questo movimento è confortante in tutti e due i casi, no? In qualsiasi direzione questo movimento vada. Penso anche che siamo proprio in un'epoca che potremmo definire della reciproca ispirazione. Io sento molto questa cosa, nel senso che l'avverto e la ritrovo continuamente, e cioè che non c'è più e non c'è tanto un'idea che qualcuno insegna, no? E gli altri imparano, c'è naturalmente anche questo, ma c'è questo movimento che ognuno, che ci possiamo ispirare a vicenda, quindi una cosa che ho capito io, che ho intuito io, può servire a te se te la dico e so dirtela, e in genere quando te la dico proprio col linguaggio dell'anima, perché è una cosa sentita, questa cosa può ispirarti, ti può servire e ti può magari aiutare nelle, no, nelle cose da risolvere della vita tua. Sono abbastanza chiara? Molto bene. Allora, uno di questi temi universali, come quelli che ho nominato, è sicuramente il tema della madre, perché anche se non tutte siamo madri, tutti e tutte siamo figlie e figli, no? Quindi il tema del materno e della madre è un tema che portiamo dentro di noi archetipicamente, si può dire, no? Quindi da sempre. E io penso che sia molto importante riflettere su come è stato il rapporto con la nostra figura materna, con nostra madre, anche se nostra madre magari non c'è più o da tanto tempo, o se comunque è una cosa che abbiamo archiviato, è bene ripensarci, perché questo io l'ho capito bene per la mia storia personale, ma anche, diciamo, frequentando i miei clienti, perché se non abbiamo risolto alcune tematiche profonde del nostro legame con nostra madre, può essere che queste tematiche poi nella nostra vita si ripresentino, agganciano altre situazioni e in qualche modo ci richiamino a risolvere quel tema lì. Quando faccio un'analisi grafologica mi rendo conto che ognuno di noi ha, no, il suo gancio importante e profondo con la figura materna, e invito la persona a raccontare un pochino di quello che era il rapporto con la propria madre. Qualcuno è molto disponibile, qualcuno no, perché a seconda di come abbiamo vissuto, no, la figura di nostra madre, possiamo sentirci nel raccontarlo in un territorio facile, no, anzi quasi gioioso, oppure in un territorio ispido, difficile, se il rapporto non è stato facile, è stato di sofferenza. E ho anche capito, lavorando, che ogni narrazione di ogni madre alla fine si riconduce a dei modelli di madre, no? E ho pensato che se noi qui raccontassimo delle nostre madri sarebbero tutte narrazioni diverse, ma probabilmente potremmo in qualche modo incanalare queste narrazioni in quelle che sono, diciamo, i grandi temi archetipici delle madri, che poi, no, sono le fiabe, le favole che ci parlano delle madri, perché possiamo avere, no, la madre fata, la madre madre, la madre matrigna, la madre strega, no? Le favole ci servono a questo, per andare in qualche modo a vedere, no, le tante sfaccettature dell'essere umano e di noi stessi anche. Ci sono manuali interi, no, sulle figure materne, su come è lo stile educativo di ogni singolo tipologia di madre. Io però i manuali non li so scrivere, quindi non ho scritto niente del genere, e ho scritto questo libro, che anche questo lo potrei considerare come un grande contenitore di narrazioni sulle proprie madri. La maggior parte di queste narrazioni le ho dovuto scegliere, ne ho scelte una quarantina nella grande baule in cui stanno, e in queste narrazioni direi che queste narrazioni derivano da una domanda specifica che io ho fatto, che considero inopportuna, e ancora di più considero inopportuna la situazione in cui io ho fatto la domanda. Diciamo che la domanda è stata questa: mi racconta sua mamma, mi racconta qualcosa di sua madre, mi racconti tua madre. Quindi la domanda di per sé è inopportuna, perché fuori di un contesto, no, di confidenza o comunque all'interno di un dialogo, è una domanda inopportuna. Ma la situazione in cui io ho posto questa domanda è stata la cosa più inopportuna, perché la domanda io l'ho fatta, ma intenzionalmente, era una cosa che avevo in mente di fare, in delle situazioni tipo quando in treno, quando il treno stava per arrivare alla stazione, quindi mancavano 5 minuti o 10, e io alla persona che avevo accanto o davanti, senza conoscerla, chiedevo: ha voglia di raccontarmi sua mamma? Oppure, ad esempio, nelle sale d'aspetto dei medici, no? Non è che andavo apposta, ma quando mi ci trovavo. E quindi anche qui, no, nell'attesa di entrare a fare la mia visita, io chiedo: mi racconta sua mamma? E poi vi dico anche quali sono state le reazioni. Oppure, e qui sono venute fuori le narrazioni, diciamo, più intense forse, negli ospedali di notte, quando le persone che fanno assistenza ai malati escono fuori nei corridoi, no, a prendere un caffè alla macchinetta, e c'è quella luce strana, no, negli ospedali di notte, che non si capisce se è giorno o notte, o se il giorno arriverà mai. E allora lì questa domanda, diciamo, ha dato i suoi frutti più intensi, mi piace dir così. Allora, queste domande sono state fatte proprio a bruciapelo, intenzionalmente, perché sono convinta che, come in tutte le situazioni a bruciapelo, tutte le situazioni inaspettate, tutte le situazioni in cui non c'è tempo per stare a fare chissà quali discorsi, non è la narrazione della mente che arriva, è una narrazione molto più profonda, no? È come se in poche parole, nell'estemporaneità, fosse veramente necessario disegnare un profilo di quello che era mia madre nelle sue connotazioni più intense, più significative, come a fotografarla in una posa inconsueta, mi ha dato questa idea. E quindi questo l'ho fatto per anni, non facevo continuamente questo, ma ogni volta che mi capitava L'ho fatto anche con grande imbarazzo di chi era in treno con me, per esempio la mia figlia, ogni volta mi diceva quando mi vedeva che ero pronta, che guardavo che ore sono e dicevo siamo arrivati quasi alla stazione, lei diceva mamma stai buona, mamma stai, io ero pronta con la penna, e lei diceva vado di là nell'altro scompartimento, è andata così molte volte. E comunque così è andata, io ne ho molte di queste narrazioni. Quindi questo libro è una raccolta di leggo una recensione che hanno scritto. Raccontami una madre è una raccolta del tutto particolare di ritratti di donne e madri, narrate da figli e figlie di ogni età, lambiti dall'onda anomala dell'estemporaneità. Ve la dico come l'hanno scritto perché mi è sembrata attinente. Adesso sarete curiosi di sapere com'è andata dopo questa domanda, no? Pensavo che potesse andare in una maniera che mi meritavo, insomma, sarebbe stato, penso, giusto che mi fosse stato risposto ma a lei cosa gli importa? Ma lei come si permette, no? Ma evidentemente c'era qualcosa, cioè sapevo cogliere il momento adatto per chiedere, quindi questa risposta credo che sia arrivata in 100 richieste soltanto un paio di volte. Anche qui, in questo libro, ecco, dove ci sono tutte queste narrazioni di persone di ogni età, quindi dai bambini fino a persone di età molto adulta. Queste persone sono state tutte, come dire, pronte. Sono state tutte pronte a, dopo il primo attimo di perplessità, a raccontare. Con questa sorta di urgenza emotiva, come dire, voglio dire tutto, questa è un'occasione, tanto non ti rivedo più. Questa è stata un po' la sensazione che ho avuto. E una volta che ho avuto tutte queste narrazioni tra le mani, mi sono anche chiesta cosa ne potevo fare di estremamente rispettoso, no? Perché è un patrimonio che io tengo come le cose più preziose, questo dono dell'anima, no? Che le persone fanno così gratuitamente, con fiducia. Allora non pensavo anche qui, per fare questo libro potrei dividere queste narrazioni a seconda delle tipologie di madri, come vi dicevo prima, no? Quindi le tipologie di mamma fata, mamma matrigna, no? Ma non mi piaceva. Ho pensato che non era la cosa che onorava di più le persone che mi avevano regalato i racconti. Allora ho pensato di suddividere il libro in capitoli di giorni vissuti con quella madre. Mi spiego meglio. Ci saranno alcuni capitolini, pochi, perché il libro è breve, si legge facilmente, però ad esempio ci sarà il capitolino intitolato I giorni del nutrimento. E in questo capitolino io ho messo le narrazioni di quei figli e di quelle figlie che hanno descritto la propria madre come quelle mamme che per ogni occasione preparano un buon cibo. Che questa è la parte bella, no? Quindi se c'è qualcosa che non va e torni da scuola avvilito, ti faccio svelta svelta due tagliatelle col sugo dei funghi che a te ti piacciono. Questo è uno stile, no? Materno, che passa attraverso il cibo, che se da un lato è molto bello, dall'altro lato però può creare anche delle difficoltà future, perché se il bambino è abituato, no, a mangiare ogni volta che c'è un qualcosa che non va, questo può aprire poi degli scenari di difficoltà e di rischio più avanti, no? E poi un altro capitolino è il capitolino dei giorni del rigore. che ospitano i racconti, le narrazioni dei figli di madri rigide, di madri di quell'autorità un po' antica, no? Io ricordo soprattutto, non tanto nei miei genitori, nei miei nonni, questo modo di essere, no? Che così è, così si fa, questo modo stroncante che non ammette nessuna replica e da cui non passa un senso di possibilità al figlio o di libertà personale. E poi c'è il capitolino dei giorni, i giorni dell'amore non detto, e si può dire anche i giorni dell'amore detto troppo, perché siamo ancora su questo tema, no? In cui ci sono i racconti delle madri poco affettive, quindi quelle che hanno difficoltà a passare al figlio la tenerezza, il contatto fisico, le parole amorevoli ci sono, no? Non c'è giudizio né per l'uno né per l'altro, ma sono proprio caratteristiche che si sono prese, chissà da quale, no, vissuto e da quale ramo transgenerazionale. Oppure nello stesso capitolo possiamo avere quelle mamme che invece di amore l'amore lo esplicitano fin troppo, fino a diventare eccessivamente presenti, eccessivamente nutrienti, eccessivamente come dire, indagatrici nella vita dei figli, sempre con una spinta amorevole, e però questa spinta amorevole a volte, no, fa sì che non abbiamo più la possibilità di salvaguardare il nostro giardino sacro e di definire, no, le nostre scelte, la nostra identità e quello che vogliamo fare. Ci sono narrazioni di madri manipolatrici, di madri seduttive, c'è una varietà nelle modalità di essere madri che è stupefacente e se ci pensiamo bene, essendo queste figure archetipi, sono presenti in ognuno di noi, no? Solo che qualche volta giocano più alla grande, qualche volta invece rimangono un pochino più in disparte. C'è poi il capitolo dei giorni del fare, in cui i figli raccontano di madri che mostravano il loro amore facendo le cose, quindi i panni sempre stirati, la casa tutta a posto, tutto in ordine. Sono delle modalità di amare i propri figli. Quello che ho notato è che quando si ha una madre che è caratterizzata da una precisa modalità, è come se quella modalità fosse veramente in eccesso e il figlio, la figlia sentono il bisogno, come vivessero una carenza delle altre modalità. Non so se mi sono spiegata, no? Io ricordo bene un signore che diceva che sua madre era perfetta e che la casa era perfetta e che si entrava con le pattine ai piedi per non sporcare, e lui ricordava che questa cosa era apprezzabile, ma che avrebbe voluto una madre invece più allegra, più alla mano, con il disordine in casa. Per cui quando abbiamo un'eccessività, o la percepiamo nella nostra figura materna, di conseguenza possiamo sempre sentire una carenza della madre che non è stata. Cioè, come madri facciamo meglio che possiamo, ma cioè, sbagliamo moltissimo, però ci perdoniamo anche perché proprio l'intenzione è quella di dare, no, più che possiamo amore e sicurezza ai nostri figli. Finisce il libro con i giorni dell'abbandono, anzi c'è un altro capitolino dopo, i giorni dell'abbandono in cui i figli raccontano l'abbandono percepito, cioè l'abbandono reale a volte, quindi figli che sono stati abbandonati, quindi com'è l'abbandono nel ricordo, oppure l'abbandono percepito, cioè la sensazione che la madre era altro. No? La sensazione di non essere stati, come dire, tenuti per mano, la sensazione di essersela dovuta cavare da soli perché la mamma dall'altra parte non era una mamma che riusciva a rispondere, no? Alle richieste emotive. Il libro finisce con il capitolo che si intitola Gli altri giorni, in cui ci sono narrazioni di altri tipi di madri meno connotate, meno caratteristiche di queste. Mi viene in mente sempre in questa parte dell'ultimo capitolo, che è come se queste narrazioni fossero dei ricordi di momenti della vita con la madre, dei frattempi. Molte persone hanno usato questa parola, nel frattempo. Mia madre era così, così, ma nel frattempo era anche, no? E mi è venuta in mente una frase di Tabucchi, che è bella secondo me, che dice questo: e tu eri felice nel frattempo, perché le persone possono essere felici nei loro frattempi. Mi è sembrata bella perché anche in situazioni, no, in narrazioni molto tristi, molto di sofferenza, però quando c'è quel frattempo in cui si può essere felici è già tanto ossigeno. Ogni raccontino è corredato da un'immagine, da una foto. Le foto le ho fatte io, alcune me le ha regalate un amico che è bravo più di me a fotografare. E perché ho scelto di mettere delle immagini? Perché sono convinta, come dice Hillman, che l'anima parla per immagini, quindi la lettura e l'immagine forse possono arrivare più direttamente a toccare quel tasto del ricordo o della riflessione o dell'emozione, non ha importanza. E le immagini che vedrete sono sempre foto doppie, nel senso che abbiamo nelle foto due cipressi o due gabbiani o due persone, proprio nell'intento di dare l'idea di questa essere in due, un due che si somiglia, no? Un due che indipendentemente da tutto, indipendentemente dal fatto che vogliamo allontanarci da nostra madre ed essere tutt'altro, o indipendentemente dal fatto che vogliamo essere esattamente come nostra madre, comunque il rapporto è un rapporto sempre doppio, di estremo legame. Concluderei, perché abbiamo finito, leggendovi qualche piccolo brano, però volevo anche prima dirvi due cose. La prima cosa è pratica, che a Bressanone quest'anno faremo un seminario proprio sulla madre, e si intitolerà La madre necessaria. Vorrei dire che è un seminario di grafologia, ma io nel mio intento c'è sempre che le cose possono arrivare con semplicità a tutti, quindi possono partecipare anche i non grafologi, perché tutto sarà comprensibile, tutto sarà, arriverà in maniera semplice. Per questo potete chiedere informazioni alla nostra preziosissima Mariolina quando sarà il momento. L'altra cosa, prima di leggervi, è questa che tengo a dirvi, che è bene, secondo me, sapere, e questo vale soprattutto per le donne, che dentro di noi vivono tre madri. La madre che abbiamo avuto, quella che è poi l'oggetto del libro, e che quindi è la madre che in qualche modo, come nell'immagine doppia, è la persona con cui comunque, no, ci interfacciamo, ci specchiamo, ci rivediamo, anche se ci allontaniamo, è dentro di noi, ci ha dato l'impronta, l'imprinting, e dobbiamo farci conti amorevolmente, sia come persona, sia come archetipo materno. La seconda madre che abbiamo dentro è la madre che noi siamo, la nostra capacità di generare, non per forza figli, non solo figli, ma dare vita a un qualcosa che per noi è prezioso e che può essere un progetto, un sogno, no? Un ideale da raggiungere, quindi un dare vita. E il dare vita non si ferma lì, perché prevede che questa vita poi la debbo curare, no? La debbo curare, la debbo nutrire, la debbo far crescere. Questo è il materno che abbiamo noi dentro. Indipendentemente da come ci ha insegnato nostra madre, noi possiamo curare le nostre creature col modo nostro. La terza madre che abbiamo dentro è la grande madre, che si può anche definire come la nostra parte interiore più saggia. Nelle favole è la che sabe, colei che sa. Se avete letto Vassilissa la saggia, io vi consiglio di leggerla stasera stessa se potete, e proprio ci rimanda proprio a questa, no, a questo nucleo di sapienza interiore che tutte noi donne abbiamo, perché è un seme che ci deriva dall'inconscio collettivo, no? E quindi questo sapere come muoverci maternamente nel mondo, che è ancora un'altra cosa. Va bene, detto questo, se vi va, vi leggo alcune piccole cose. Ne ho scelte solo poche, perché poi il libro è piccolo, un po' se le leggo tutte non vi verrà mai voglia di comprarlo, quindi è proprio una mossa strategica. Sto scherzando naturalmente. Anita, potresti ripetere quello che hai fatto leggere stasera? Vassilissa la saggia. La favola di Vassilissa la saggia. Allora adesso vi leggo quello che mi ha raccontato Ernesto, 65 anni, in treno mentre stavamo per scendere a Firenze. Ernesto è stato, diciamo, la narrazione di Ernesto è stata messa dentro il contenitore dei giorni del fare. Quindi ci racconterà una mamma che era brava a trasmettere il suo amore facendo le cose. Però lui dice: preferirei parlare della madre di mia moglie, che quando veniva a casa nostra cambiava la disposizione delle cose nei cassetti. I miei calzini passavano senza preavviso dal primo al quarto e i pigiami finivano nello sportello a destra dell'armadio dove prima stavano le maglie invernali. Un giorno mi sono arrabbiato e l'ho urlato dietro che mi stava esasperando, che non ritrovavo più niente. Mi sono sentito meglio. Fino alla sera, e più precisamente fino al momento in cui, entrando in camera, decine di post-it gialli appiccicati ai cassetti con l'elenco dettagliato dei loro contenuti hanno dichiarato la mia disfatta. Povero uomo questo Ernesto. Silvia, 40 anni, sempre il treno mi ispira, sta dentro il capitolino dei giorni dell'amore non detto. Mia madre è sordomuta dalla nascita e quando è rimasta incinta tutti si sono disperati perché di sicuro avrebbe generato un'altra piccola sordomuta. E invece sono nata io, che parlo e come, e anche ci sento. Tutto qui, direi. No, c'è un'altra cosa. Lei mi ha insegnato a parlare con lo sguardo. Io con uno sguardo, se voglio, ti fulmino. Sempre siamo, adesso abbiamo due raccontini su, mamma mia, come sono confusionata, sui giorni del nutrimento, due raccontini. Uno è di Gaia, che ha 5 anni e stava sul tappeto del mio studio. La mia mamma ha fatto anche il disegno, e nel disegno che trovate è proprio lei, sul disegnino della sua mamma. La mia mamma mi piace quando prepariamo il tiramisù, e dice che lo facciamo meglio della zia Clelia, che ci mette i biscotti da meno per risparmiare, che non ha capito niente della vita. Io chiedo cosa si deve capire, ma lei dice: stai zitta che è tardi e batti le uova senza strapazzarle, se no ti strapazzo te. E invece Ferruccio, sempre in questa capitolino, 65 anni. La prima cosa che mi viene in mente è quando di domenica andavamo al mare e mia madre la sera prima preparava le lasagne, l'arrosto con le patate, l'insalata russa, l'insalata normale e la zuppa inglese, e la mia zia i cannelloni, le cotolette, il gratin e il ciambellone. Dicevano: un giorno di festa bisogna goderselo come si deve e riposarsi. Quando mio zio una mattina ha caricato sul portapacchi anche un materasso di crine per stare più comodi dopo mangiato, mi sono ammazzato dal ridere, e invece mia sorella si è vergognata a morte e non voleva più venire. Ora, per come io vi leggo, può essere che quello che passa è la leggerezza, può essere, perché a una prima lettura quello che si nota è l'immediatezza del racconto, no? E l'immediatezza fa anche ridere, perché insomma arrivano le cose più vere. E in realtà ci sono poi, a rileggere la seconda volta, così mi dicono, l'effetto è completamente diverso. E poi ci sono anche delle storie che non sono allegre, ma sono molto toccanti. Secondo me, io ci ho pianto tanto con certe storie, insieme alla persona col rischio di non scendere dal treno. Questa è l'ultima cosa che vi leggo, è di Sonia, 56 anni, in sala d'attesa, non mi ricordo se di un ospedale o cosa. Mia madre faceva l'ostetrica, di quelle di una volta, che si alzavano di notte e partivano con qualsiasi tempo per raggiungere le partorienti sudate e spaventate. Io rimanevo con la nonna, che al mattino mi preparava il latte col pane e mi diceva: oggi, grazie a tua madre, siamo uno di più nel mondo. Un giorno mia madre si è ammalata, seriamente, ed è morta nel giro di 3 mesi. Allora, lei non ci crederà. Ma poco prima di spirare ha detto: oddio, sto per nascere. Non posso andare più avanti? Allora vi ringrazio, finiamo qui. E vi ringrazio di questa partecipazione, vi ringrazio dell'attenzione con cui mi avete seguito, non è volata una mosca. E vi ringrazio dei vostri sguardi. E se volete regalarmi delle narrazioni delle vostre madri, l'indirizzo mail lo trovate sul sito Anita Rusciadelli, e io le conservo tutte con grande cura e dedizione. Grazie. Se volete chiedere qualcosa, volentieri, altrimenti. Sì, io saprei una cosa. Sì, anche la signora in fondo, un attimo solo. Intanto grazie per la serata, mi è piaciuta particolarmente, grazie. Proprio per il tema che è stato affrontato. Le domande sarebbero tantissime, però mi limito ad un paio, insomma. Esiste un rapporto tra le narrazioni, diciamo, sulla madre con il genere poi invece maschile, perché di questo non si è parlato, ad esempio, no? C'è anche questa conflittualità dal momento che c'è la famiglia, i figli, quindi con due generi ben particolari. Questa è una cosa. E la seconda è le narrazioni, ad esempio, in territori diversi, perché indubbiamente il meridione ha dei comportamenti, i nordici altrettanto diversi, quindi non c'è più un modello generale che vale per tutti. Ecco, volevo sapere queste cose. Sì. Allora comincio con la seconda. Sicuramente sì, diciamo che le narrazioni del nord e del sud sono diverse, anche se diciamo nelle persone più giovani, parlo dai trentenni in su, la visione della madre è una visione che già si sta emancipando, no? Nel senso che anche le persone che hanno sempre, come dire, tenuto dentro di sé un'idea di madre affettiva, protettiva, nutriente, come possono essere le mamme del sud. In realtà solo negli ultimi 10 anni, direi, cominciano a interrogarsi sul fatto che quell'unico modo forse ha portato via qualcos'altro. Non so se... anche troppo attivo. Sì, sì. La persona non si evolve più. Sì, sì, ma abbiamo parlato di questo. Certo. Certamente è questo. È questo. E la prima domanda, se non ho capito male, era come il rapporto madre... Le relazioni sulla madre, sì, ma che in qualche modo vengono rapportate anche con le narrazioni maschili, del genere maschile, che può essere il padre. Sì, sì, sì, sì, sì. La madre è sempre la figura più facile da descrivere, più facile in queste condizioni di intimità creata, nel senso che, per quello che ho visto, il racconto sulla madre arriva proprio sgorga, no? Il racconto del padre prevede un tempo di razionalità, questo è quello che ho notato. Quindi è come se la madre già fluisse nel racconto e il padre avesse bisogno di essere un pochettino messo a fuoco. Questo è proprio quello che ho notato, anzi grazie di questa domanda perché l'avrei dovuto dire. È come se ci fosse uno sforzo di razionalità nel narrare il papo. Grazie a lei. Buonasera. Allora, sarei molto incuriosita di un aspetto tecnico di queste sue interviste. Come faceva lei, ad esempio, saliva in treno, si sedeva accanto di fronte a una persona, come la sceglieva? Ah, ma non la sceglievo, sì, mi accomodavo. E improvvisamente faceva, sì, questa domanda o prima di altro? No. Improvvisamente? Sì. Poi cosa faceva? Prendeva un po'? Sì, sì. Sì, perché chiaramente no, mi appunto velocemente delle cose quando è il caso, poi non sempre, perché ho un registratore interiore che funziona molto bene e naturalmente la persona chiede immediatamente perché e io spiego proprio in due parole: guarda, sto raccogliendo i racconti di madri, di persone che non conosco, e se ti va, si può raccontare. Ma proprio una roba stringatissima per non sciupare quel momento, per non rendere troppo lungo quel momento di intermezzo tra lo stimolo e la risposta. Ma poi immagino che qualcuno, quindi qualcuno, si lasciasse andare a un racconto piuttosto lungo. No, perché non c'era tempo. Perché lei è entrata dopo? Ah, perché la scelta era proprio di scegliere gli ultimi 5 minuti. Sì, ecco, gli ultimi 5 minuti prima che il treno arrivasse o gli ultimi 2 minuti prima che l'infermiera chiamasse per entrare per una visita, proprio il tempo stringente dei pochi minuti prima. Questa era... Però dovrebbe essere lei a scendere dopo 5 minuti, sì. Sì, io scendevo dopo 5 minuti. Sì, sì. No, certo. Sì, sì, è il poco tempo, è quello che ha fatto la differenza. Come dicevo, che ha dato il profilo più netto, è come una foto, ho avuto sempre questa impressione qui, di una fotografia. Va bene, grazie. Ecco. Qualche domanda ancora? Che non ricordano una madre benevola. Cioè, mia madre era gelosa del mio compagno. Sì, no, non ho mai pensato di raccogliere solo cose positive, non sarebbe stato coerente con la realtà, no? E quindi sì, ci sono... finisco di parlare con lei, sì. E quindi volevo dire che nel libro sì, ci sono molte narrazioni in cui il ricordo della madre è un ricordo negativo, non so che, se posso usare questa parola, ma comunque che non ha facilitato il respiro della crescita, questo mi verrebbe da dire. Bene? Siamo a posto? Vi ho annichiliti? Ci possiamo lasciare allora, grazie di nuovo. Grazie. Grazie.